La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 57. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero. Il numero dei senatori elettivi è di 315, 6 dei quali eletti nella circoscrizione estero. Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiori a 7, il Molise ne ha 2, la Valle d'Aosta 1. La ripartizione dei seggi tra le regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. L'articolo 57 riguarda l'elezione del Senato e qui viene subito posta una differenza rispetto all'elezione della Camera. Infatti il Senato è eletto a base regionale, il che significa che comunque deve tener conto di circoscrizioni regionali in quanto il Senato dovrebbe anche rappresentare le regioni. Abbiamo già detto e ripetiamo che il sistema bicamerale italiano è un sistema paritario quasi perfetto. Significa che entrambe le Camere rappresentano la nazione e svolgono funzioni analoghe. Tuttavia la Costituzione differenzia leggermente la composizione e i requisiti di elettorato attivo e passivo per la Camera ed il Senato. Infatti, la Camera ha un numero doppio di deputati, 630 rispetto ai 315 del Senato. Inoltre, i requisiti di elettorato sono differenziati perché per diventare deputato bisogna aver compiuto 25 anni, invece per diventare senatore bisogna averne compiuti 40. Per cui il Senato è una Camera dove la rappresentatività riguarda delle categorie più mature della popolazione. Del resto, anche le leggi elettorali differenziano perché si è elettori per la Camera dei Deputati al compimento della maggiore età, 18 anni, mentre si vota per il Senato a 25 anni. Quindi c'è una differenza di 7 classi di età nell'elettorato attivo e spesso i risultati della Camera e del Senato sono leggermente differenti, anche proprio per la differente composizione anagrafica dell'elettorato. Ora, Camera e Senato hanno spesso leggi elettorali differenti, ma tuttavia attualmente la legge elettorale del 2017 equipara pienamente i modelli elettorali. Qual è la differenza che invece pone la Costituzione? Che il Senato è eletto a base regionale, per cui dovrebbe comunque avere presente il riferimento territoriale. Questo era molto forte, per esempio, nella legge 2005, il cosiddetto Porcellum, la legge Calderoli, dove addirittura il Senato assegnava i premi di maggioranza alle singole regioni. Per questa ragione, dal 2005 in poi, abbiamo assistito a difficoltà di composizione della Camera e del Senato perché le leggi elettorali differenti potevano portare a risultati differenziati proprio in base alla modalità di elezione. Altro punto significativo dell'articolo 57 è quello degli eletti nella circoscrizione estero. Dal 2000-2001 abbiamo assistito a questa importante modifica, prima costituzionale e poi legislativa, per consentire anche agli italiani residenti all'estero di votare. In questo modo è stato riservato per Costituzione un numero specifico di eletti, 12 deputati e 6 senatori, che vengono eletti nella circoscrizione estero e che quindi devono rappresentare gli italiani dei vari continenti.